Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da marzo a dicembre del 1801. Firmato il concordato tra Bonaparte e Pio VII, i preti dovranno giurare fedeltà allo Stato. Conflitto tra poteri negli Stati Uniti, Jefferson vuole rimuovere il capo della Corte Suprema. A 17 anni ed è italiano il nuovo fenomeno musicale, si chiama Niccolò Paganini. E mentre si celebra Paganini muore un altro grande, Domenico Cimarosa. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Dopo molte trattative è stato firmato il concordato tra Francia e Chiesa Cattolica, la quale è sì formalmente riconosciuta, ma vede la sua forza molto ridimensionata. Per Pio VII è una ben magra consolazione l'aver ottenuto di poter rimuovere i vescovi. Il fatto è puramente formale, perché la nomina spetta allo Stato francese e al Papa resta la sola investitura canonica. La pressione francese si è fatta sentire anche dal lato economico degli accordi. La Chiesa è stata costretta a riconoscere come non più propri i beni nazionalizzati durante le avanzate napoleoniche, ottenendo in cambio che i prelati vengano salariati dallo Stato. Però i sacerdoti dovranno giurare fedeltà allo Stato stesso. In cambio il cattolicesimo ottiene un riconoscimento, seppure non tale da dare piena soddisfazione. Il concordato stabilisce che il cattolicesimo non è religione ufficiale della Francia, ma religione della maggioranza dei francesi. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Negli Stati Uniti si sta vivendo una fase di forte tensione politica dopo che l'amministrazione dell'ex presidente John Adams ha fatto una serie di nomine giusto prima della scadenza del mandato. Tra queste quella del giudice della Corte Suprema John Marshall, soprannominato come gli altri giudice di mezzanotte proprio per questa circostanza. Sembra che nell'abrogare la legge che modifica il sistema delle cariche giudiziarie, il neo presidente Thomas Jefferson voglia intervenire anche sulle singole nomine, correndo a giudici terzi. Nella colonia spagnola di Santo Domingo è in corso una vera e propria rivoluzione. Nei mesi scorsi gli ex schiavi guidati da François-Dominique Toussaint Louverture hanno dichiarato l'indipendenza per la parte francese, per poi occupare la capitale del lato iberico dell'isola. Erano stati favoriti dal clima della rivoluzione francese. All'avvento del bonapartismo potrebbe cambiare l'atteggiamento dei paesi coloniali. Ha solo 17 anni, ma viene già considerato un prodigio musicale. Si tratta del genovese Niccolò Paganini, i cui virtuosismi stanno facendo impazzire gli amanti della bella musica. Il ragazzo ha suonato recentemente nella cattedrale di Lucca in occasione della festa della Santa Croce, usando un violino realizzato a Cremona da Giuseppe Guarneri e regalatogli da un ammiratore. E mentre l'Europa e l'Italia celebrano Paganini, è scomparso in gennaio a Venezia, ma la notizia si è appresa solo ora, il grande compositore Domenico Cimarosa, celebre autore degli Orazzi e i Curiazzi e di un'altra ottantina di opere. Acceso sostenitore della Repubblica di Napoli, fu arrestato e condannato a morte, ma vi sfuggì grazie all'intercessione di alcuni suoi ammiratori. Ed è tutto anche per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e da Paolo Piacenza. Se volete riascoltarci lo potete fare sul nostro sito www.radio24.it, da dove potete anche scaricare una versione da leggere e volendo stampare. Se volete scriverci ma non avete penna e calamaio, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it.